paga 24. Vai Seba, non dagli la linea alle 18:30, dagliela alle 20 a sti miserabili. Seba, combatti, combatti con lo spread, con Juncker, combatti, non gli dare la linea, non gliela dare. Vai Seba. San Gennaro, protettore, butta fuori Barisone. Vabbè, ti saluto, va, mo cambio canale, vado a sette zapping che dicono meno cazzate di te, va. Mi sento zapping, certo. Ciao, Grucia. La zanzara. Tutto il resto è no. Non ho detto gioia. Parenzo, qui è una che ci può essere. Ha capito Parenzo? Anche dalla Cina te lo diciamo. Assumi la Rom. Parenzo, qui è una che ci può essere. Voglio la Rom a casa di Parenzo! David, così la maggioranza silenziosa si sfalda. Serve un messaggio forte da parte del nostro leader Massimo. David, assumi la Rom. David! La Sargento e compagnia bella avrebbero dovuto denunciare il mitico Weinstein, così magari avrebbero salvato le altre ragazze da questo maiale. Invece stiamo zitti, facciamo carriera e vaffanculo a tutti. Parenzo, ti voglio carico! Adesso abbiamo Asi Argento che invece è l'unica pentita. Abbiamo il pentito nel letto del regista. Il pentito ha rotto il cazzo. Ma quali molestie? La proposta, anche tu per scopare una ragazza hai fatto delle avance. Non le si scopre, non è che te la dà a priori. Gliela chiedi e lei può dire di no. Gliel'hai chiesto o no? Come fai a scopare, tu cazzo di un parezzo? Come scopi? Gliela chiedi? Chiedere e già imporre. Guarda che io ti ho visto a casa di quella puttana brasiliana famosa. C'eri a casa di quella ragazza brasiliana? E cosa facevi? Cosa facevi lì? La puttana brasiliana. Parenzo a casa della puttana brasiliana. No, no, questa cosa va approfondita. No, no, no, no. Ce l'avamo persi questa perla. Ce l'avamo persi questa perla sgarbiata. Le diffamazioni. Adesso salta fuori la puttana brasiliana. Poi quella salta fuori ancora. Beh, poi Napoli, salta fuori Napoli, il l'amante figlio, di Napoli, ecco, l'amante. Il figlio del segreto di Napoli. Mi pare insomma che quanto ha, appunto ha, come dire, schizzi di materiale di nero fango, di fango. Di fango, ecco, schizzi di fango qui in questa trasmissione non manchino, no, diciamo, no, non no? ci facciamo non mancare mancano. Nulla non ci facciamo Che mancare. Fine ha fatto ad esempio questo mio figlio napoletano, ad esempio, no? Come mai si è abbandonato? Adesso si è aperto un nuovo grande filone di inchiesta, mi pare, no? In questa trasmissione. Beh, ti annuncio, siete, caro Davide, posso dirlo alle 18:38 in ritardo, sì. Chi siete voi? Che siete siamo? Delle teste di cazzo. Ma no, di più. No, no. Cioè, no, sì, te no. Lo dico anche con un tono di voce pacato, quello che usa Fusaro. Sai che Fusaro sì. Ha litigato con Fusaro. Sì, sì, non lo so, sì. Ah, sì, sì, l'ho visto. Ma usa quel tono di voce basso, pacato. Mi fa incazzare, no? Ancora di più. Mi fa incazzare. Che io quando l'ho sentito dice: no, altresì potremmo aggiungere, gli dai una cragnata in faccia se uno ti parla così, capito? Allora, dico con grande pacatezza che questa è una trasmissione in cui si infama la gente. Se la si infama proprio. Ora salta fuori pure la prostituta brasiliana, ma il figlio adottivo, il figlio, no, il figlio a Napoli. Poi l'altra volta cosa ha detto Sgarbi che avrei fatto, che scoppiò quell'altro casino tempo addietro? Beh, poi cos'è c'è la che vicenda Sabeta, poi c'è la vicenda Sabaeta, ma quella no, l'altra vicenda di Sgarbi che mi imputò anni, mesi fa, che scoppiò un casino. Non lo so, della telefonata di Grillo. Come no? Quindi, ragazzi miei, siete delle brutte persone, posso dirti? Ti annuncio che il mio nostro amico Luca Bizzarri ha firmato. Anche Bizzarri. Persona Bizzarri dello spettacolo, conosciuta. Era una persona molto simpatica e intelligente. Ha firmato la petizione Bizzarri. Parenzo assumi Sabaeta. Applausi. Applausi al signor Bizzarri. Bizzarri, attualmente conduttore della trasmissione Quelli che il calcio. Vabbè, 7500. Ma Bizzarri perché si presta a mettere il suo nome, la sua firma autorevole in quella roba falsa, immonda? Non è falsa e immonda. Siamo a 7500, avanti. Ma tutta cosa, ragazzi, change.org, 7500, stiamo arrivando a 10.000. Ma dove vuoi arrivare? Alla quota 10.000 sei finito, Natalia, amica mia. Io non ti voglio male, lo sai, preparati alla roaming casa. Ma perché devi molestare anche altri membri della famiglia? Magari, no. Perché non? Che io non capisco, devi molestare no, e creare dei danni in casa, poi perché mi vuoi male? Incalcolabili. Ma perché ogni volta che tu la pronunci il suo nome mi procuri dei danni? Si arrabbia giustamente, dici, ma perché mi deve... Comunque ti voglio raccontare questo in due minuti e poi chiudiamo qui. Sono a Capri. Sì, vabbè, lo sappiamo, adesso non fare la solita marchetta. Lo so, vai sempre a fare marchette in giro. Diciamolo, vai sempre pagato a fare marchette in giro. Ma perché le marchette poi sono pagate di solito? Sei signori della Confindustria. È un grande convegno che partirà domani dei giovani della Confindustria. Capri, parleremo, volevo dirti questo solo. Parleremo, che è un tema molto interessante che affronteremo anche in questi giorni. Sì. Oltre l'Italia nel mondo, il mondo in Italia. Ci sarà, tra gli altri, una persona, io vorrei trasmettere in diretta il suo intervento. Perché ci sarà il vicepresidente del l'ISPI, ad esempio. Ma chi se ne frega, basta, troppe parole già così? Non me ne frega un cazzo di chi così? C'è o non c'è, e l'ambasciatore israeliano. Ma ce ne frega, ecco perché stai là. Ma ecco adesso cosa vuol dire? Ecco perché stai ma là. Ma che vuol dire? L'hanno invitato, c'è loro, la tua mica lobby. Io c'è la ma tua quale lo... c'è la ma tua perché lobby. Ma vedi come infanghi, adesso chiamerà qua, sei un infangatore. Però sei una brutta tutti. Persona un infangatore sei. Allora, gli audio di oggi che vi faccio ascoltare sono quelli di uno scontro epocale, direi epocale, anche se uno è meno conosciuto dell'altro. Di Pietro lo conoscono tutti. Fusaro è il nostro filosofo preferito. Interviene ogni tanto con la zanzara. Il filosofo della zanzara, si potrebbe dire così anche, no? Signor Diego Fusaro, che oggi nella trasmissione Aria che tira, condotta temporaneamente una volta dal signor Davide Parenzo qui presente, poi successivamente stromesso a favore della signora Merlino. No, anzi, no, è la sua trasmissione, no? È la sua trasmissione. Intanto abbiamo detto. È la sua bellissima trasmissione. Abbiamo infamato. Dice, è la sua trasmissione, io semplicemente l'ho fatta per un mese. Di Pietro. Ma guarda se mi devo giustificare di ogni cosa io. Ma è una cosa, sei una persona sporca dentro. Di Pietro contro Fusaro. Aspetta, a un certo punto Di Pietro sbrocca totalmente. Si sta parlando di una cosa. Fatto arrabbiare. Allora, ragazzi, si sta parlando di una cosa a cui gli italiani sono totalmente disinteressati, cioè gli italiani non frega una mazza di Mani Pulite, il 92 non gliene frega un cazzo, la gente non è che è pensa, un grande tema, ma non frega un cazzo di Mani Pulite. Ma vogliamo allora stasera approfondire il tema di Banca Italia? No, Di Pietro contro Fusaro. Per costringere l'umanità tutta a riconfigurarsi con una massa. La colpa di quello che fa la violenza sessuale e dell'imprenditore di turno che non ha dato il lavoro. No, io non ho parlato di imprenditori. Scusa, ci fanno capire. Ha una tendenza a banalizzare le cose. Ma non è banalizzare, stai banalizzando tu. Cosa c'entra? Scusa, fai parlare anche a me adesso. Perché non è. Devi anche stare con i piedi per terra, amico mio. Che cavolo c'entra il fatto che ci sono delle persone che hanno l'1% di ricchezza col fatto che uno che sia bianco, rosso e verde prende la donna e lo violenta? Ma benedetto il Signore, allora, sarai pure un morto di fame, ma non devi violentare la donna. Allora, ma che ci azzecca questo? Se posso replicare, ma che ci azzecca? Purtroppo lei ha banalizzato ma tutto. Ma no, sta banalizzando lei, sta parlando dei massimi sistemi quando si stiamo parlando anche scaldando di una cosa così grave. Ma mi scaldo sì, perché è una vergogna quello che stai dicendo. Ma non starnazzi. Allora, questa è la premessa. Già gli anni. Ma perché gli dice starnazzare? Scusa, ma io mi sarei alzato. Ma negli anni 60, un momento, solo a dire questo. Negli anni 60, sa come avrei reagito io, Mario Capanna, quando un cosiddetto filosoficchio mi dice starnazzare? Ma io molto semplicemente gli avrei dato prima una vigorosa capocciata in faccia e poi successivamente l'avrei trascinato fuori dagli studi televisivi, dove lui si sarebbe accomodato a confrontarsi con altri 12 Katanga. Noi dicevamo all'epoca: dai Katanga, fuori la spranga. Questo è quello che sarebbe accaduto negli anni 70. Questa avete sentito la premessa. Tra i due, insomma, cominciano a scoppiare delle scintille. Poi a un certo punto il signor Fusaro nomina, ovviamente, il feticcio di Di Pietro, essendo stato uno dei protagonisti, cioè dire mani pulite, un colpo di stato. A quel punto sbrocca. Tu non devi devi giustificare sulla violenza sessuale. Vergogna. Ma come fai a giustificare il colpo di stato di mani pulite? Ma quale cazzo? Il colpo di stato di mani pulite? Senza questo, il colpo di stato di mani pulite. Ma da dove viene questo discorso? Un colpo ho distrutto io, ho distrutto quelli che hanno rubato. Mani pulite. Ma dove cazzo non lo stai? Ma mi scappa pure la parola. Ma la colpa è di noi che abbiamo scoperto i ladri o di ladri che hanno passato questo paese? Sì, non si scomponga. Ma che cavolo stai dicendo? Anzi, ma che cazzo stai dicendo? No, no, Di Pietro. Ma che cazzo? Allora, non si scomponga. Mani pulite nel 92 fu un colpo di stato. Ma vai a cagare. Allora, che cazzo dici? Vai a cagare. Continua, continua. Si distrusse una prima repubblica fondata sui diritti sociali dei lavoratori. Sì. Si aprì. E quelli che rubavano chi era? Quelli che rubavano chi era? Quelli che rubavano chi hanno distrutto la classe lavoratrice. Quelli che rubavano chi erano? Mani pulite sul tema. Non si scomponga. Mani pulite fu un colpo di stato. Punto. Questo fu. Ragazzi, allora, ma avete sentito? Ha ragione Parenzo. Cioè, quello non si scomponga. Fu un colpo di stato. Dice una cosa grave: fu un colpo di stato. Sì, beh, gravissima. Non si scomponga. Non si... Ma vai a cagare. Capisco che lei si scomponga e non deve, allora, perché fa male alla salute. Ho a che fare con una persona che non capisce di che sta dicendo. No, io posso non si rende conto di quello che sta dicendo. Donne, sta confondendo mani pulite con Tangentopoli. Sta confondendo chi ha scoperto i reati con chi li ha commessi. Allora lei sta. Ma che sta dicendo? Sta offendendo la sua intelligenza. Ma no, stai offendendo. Io sto. Sei lei che sta offendendo l'intelligenza italiana. È la prima volta in vita mia che per calmare gli animi do la parola alla Santanchè. Non me l'ha mai ancora successo. Oggi è successo pure quello. Solo e solamente una cosa io chiedo alla Zanzara: sentire David Parenzo combattere! La Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Secessione, tradimento. Buonasera a voi da Diego Fusaro. David, così la maggioranza silenziosa si sfalda. Serve un messaggio forte da parte del nostro leader Massimo. David, assumi la Rom. David. Le richieste arrivano anche da lì, anche dalla tua parte, caro Davide, anche dalla maggioranza silenziosa arrivano richieste su richieste. No, questa è gente taroccata, maggioranza silenziosa. Taroccata. Sappiano, io non assumerò mai nessuna Rom. Ho già con noi in famiglia una persona straordinaria che da tantissimi anni è con noi e a cui vogliamo molto bene. Male. E quindi la signora. E poi no, questa cosa che il privato, il singolo deve aiutare. Cambia registro. L'hai questo già è il punto politico, registro. Vero? Non me ne frega niente. Punto politico, fossero un milione. Punto politico. Bravo. Bravo. Punto politico. Bravissimo. Allora, veniamo ad apprendere noi della Zanzara insieme a tutta l'Italia, o almeno chi legge i giornali. Un altro però annuncio da ma fare. Ma mi fai poi parlare? Ma che cazzo, sei impazzito? Ma stavo dicendo una cosa e mi interrompe. È pazzo, io non lo faccio mai. E lui io mi interrompe. Pazzo. L'interruzione è più grave delle infamità che ho sentito. Puttane brasiliane, figli a Napoli, donne che devo assumere in casa, nominata la mia compagna. Ciro. Ciao Ciro. Senti chi c'è alla radio. Alla radio c'è papà tuo. Ciro di papà David. Ciao. La cosa, guarda, di una infamità. Questa però non è stata chiarita fino in fondo la tua relazione. Ma cosa vuoi chiarire? Hanno montato un audio, no? Ma cosa vuoi chiarire? Non è stata chiarita fino in fondo questa tua storia di questa amante a Napoli che mi raccontasti una volta. E ci sarebbe anche un figlio, Ciro. Ciro, lo stereotipo più che Ciro si chiama. Siete dei mentecatti. Io guardo ogni giorno che noi andiamo in onda, mi domando: ma perché mandano in in onda ancora sta trasmissione. Sono anche contento da un certo punto di vista, ovviamente, perché però il 27 dici, del ne, mese non te ne fai una il ragione. 27 del mese ovviamente arriva l'assegnino, certo. Arriva il famoso emolumento, come direbbe Liban, tramite il professor Iban, Fusare tramite arriva politica, l'Iban, chiamiamolo, sì. Ma perché ci mandano in onda? Ma che vergogna è? No, oggettivamente, no, questo, no, dai, ma bisogna dirselo, però no, no, è più vergognoso, bisogna dirselo, è più vergognoso questo dircelo. Oppure la Boldrini che parla a nome delle donne italiane dicendo dicendo aspetta, dicendo l'Italia è con te, la gente è con te, la Boldrini ad Asia, bellissima, l'ho letta quell'intervista, bellissima. A nome del popolo italiano, delle donne italiane, sì, la, il presidente della Camera, che secondo me ha fatto un danno ad Asia Argento, ogni volta che parla fa un danno sicuramente alla persona che difende, su questo non c'è il minimo dubbio, guarda, trascina giù, sei uno nel consenso, no? Uno dice parla la Boldrini, tum, tirato giù di 3-4 punti subito, va, dai ragazzi, su. Cioè, poi tra l'altro in missione, ho saputo, in missione in America e in Canada. In missione in America e in Canada. Il presidente della Camera a spese nostre. In missione? Cosa c'è? In missione. No, eccolo là, a spese nostre. Allora, il presidente della Camera e del Senato non dovrebbero più andare in missione all'estero. Andrebbero proibite le missioni. Parlassero via Skype con le persone. Così si risparmia. Internet, come dice Grillo. Internet, il web. No, basta missioni internazionali. Missione all'estero. Perché uno va? Il presidente della Camera che mi dà la conta zero. Naturalmente, come è ovvio, no? Tranne i casi particolarissimi. In missione in America e in Canada. Quanto è costata questa missione in America e in Canada? Non si poteva fare via Skype. Cosa dici? Via Skype? Ma certo. I rapporti, le missioni anche commerciali, comunque, politiche, sono fatte di rapporti umani, di fare una cena, questa di interloquire, di creare un ma insomma, missione, una cosa incredibile. Comunque, questa è una parentesi. Ha detto, resta in Italia, Asia, resta in Italia. Ma chi se ne frega se va all'estero? A parte che non c'è mai stata in Italia, Sergio, c'è stata pochissimo, è sempre stata all'estero per sua stessa missione. Dunque, non mi pare così attaccata al suolo patrio, anzi, è sempre stata una di quelle che ha gettato merda sull'Italia ogni volta che ha potuto. Dunque, la signora Sergento, mai stata in Italia. Adesso dice: vado all'estero, non so se torno in Italia. Ma chi se ne frega se torna o non torna? Non è un problema. E la Boldrini che risponde: resta in Italia, la gente è con te. Ma ti rendi conto la combo, il combinato disposto, detto anche combo Boldrini, Asia Argento, quanti voti portano, non so perché, indirettamente al centrodestra? Ma poi una marea, ma sì, ma te lo dico io, una marea di voti, una, te lo dico. Ma è così, perché l'appoggio della Boldrini, cioè proprio sono tutte cose, sono tutte cose tafazziste, capito? Una roba pazzesca. Mirko da Latina, vai Mirko. Premetto che sono uno di quelli della vera maggioranza degli ascoltatori di questo programma, cioè quelli che avrebbero voluto far parte della maggioranza silenziosa, ma le sono dovuti uscire perché, perché? Le posizioni oltranziste di Parenzo sono completamente fuori. Non hai capito, sono io che do la linea, se tu sei fuori, sì, vero, anche dal tono di questo, sono io che decido. Io la maggioranza silenziosa. Sono Italo Calvino che è uscito dal PC nel 57, proprio. Beh, questa è una bella citazione, però. Però è vero quello che dice Parenzo. Questa è una bella citazione. Sì, è una bella citazione, però adesso non tornare indietro. Cioè, sei tu che dai la linea sul serio, essendo il capo della maggioranza silenziosa. Non puoi dire. Ma le regole sono molto semplici: buon gusto, brocche di vetro, sottopiatti d'argento. Così, si dice colazione garbato, e si dice senso. Pranzo. Io tra poco alle 21. Alle 21, vediamo. Comunque, facciamo un test: vediamo se lei è davvero della maggioranza silenziosa. Io alle 21, dove vado secondo lei? Ma che cazzo? Ma sì, vado a pranzo o a cena? Alle 21, vado a pranzo o a cena? Sì, la colazione allora alle 12 lei va a pranzo, ma non voglio parlare con Parenzo. Allora, parlo... alle 21 si va a pranzo. Ma che vuoi dire, Mirko? Che vuoi dire? Sì, no, volevo capire se ce l'ho con te in realtà oggi. In realtà il perché? Fatto è che il tuo difetto è questo, che tu per la posizione che occupi non sei in grado di dire alcune cose che pure pensi. Ma guarda, non mi sembra proprio. Ti posso assicurare che purtroppo dico anche oltre quello che bisogna dire. Ti faccio un esempio a passato. Dammi l'esempio, dai. Il grande difensore con molta velocità anche però. Sì, come il difensore del mercato libero che però insomma difende il monopolio dei tassisti. Comunque no, voglio parlare del caso. Che cazzo c'entra questo? Niente, infatti ti parlo di Weinstein. Tu, e oggi ti faccio un regalo, ti dico quello che vorresti dire tu. Dimmi. Tu vorresti dire: Weinstein ha fatto bene. Perché Weinstein ha fatto bene, cioè Weinstein è Weinstein un... poi secondo me, comunque vabbè, no, si dice Weinstein. Weinstein, va bene, d'accordo. Allora ha fatto, cioè, secondo te io dovrei dire, anzi vorrei dire ma non riesco a dire, o comunque ho paura di dire, che ha fatto bene a scoparsi tutte quelle donne? Sì, perché poi tu dici il ciccione, il vecchio porco, il maiale. Vabbè, che c'entra, quello Weinstein, è come viene dipinto dall'esterno, in quel senso Weinstein, lo dico. È un personaggio poetico secondo me, ma ti faccio guarda, un ragionamento no, molto ragazzi, rapido. Allora ti dico subito una cosa, adesso dobbiamo chiudere purtroppo, è la trasmissione delle interruzioni, questa qua, poi ti riprenderemo dopo. tempo. Allora, non ha fatto bene, perché io non lo farei mai. Dopodiché erano semplicemente delle richieste e si poteva dire no, punto. Il segnale orario vi è offerto da Unica e Italiana Assicurazioni, società di Reale Group. La Zanzara. Buonasera, benvenuti dalla vostra parte. Ti fanno andare a scuola? Oh, adesso il capo ce l'hai, scuola non ce l'hai, niente non ce l'hai. Direttore pazzesco! Nella roba pazzesco! Non ce l'hai, non ce l'hai, non ce l'hai, niente non ce l'hai, non ce l'hai, non ce l'hai, non ce l'hai, non ce l'hai. Io vendere erba, dove la prendi? Malpensa, tutto viene di là. Da Bergamo, sì! Da Bergamo, vai all'aeroporto. E rapporto, Linate, Bergamo, Malpensa. E vendi l'erba. Nella roba pazzesca! Sì! A vendere l'erba. Io vendere erba, io vendere cana. Non ce l'hai. Cana. Non ce l'hai. Cana. Non ce l'hai. Niente, non ce l'hai. Naturalmente. Vai tu, se volete parlare al telefono con la Zanzara da Fallotto 0024 0024 oppure se volete mandare un faccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. Parenzo, guarda il servizio delle Iene, guarda chi sono gli spacciatori, tutti i tuoi amici clandestini, tutti i tuoi amici clandestini, quei pezzi di merda che stanno avvelenando i ragazzi italiani. Cornuto, tu e loro, pezzo di merda, e denuncia sto cazzo, cornuto di nuovo. Questa era particolarmente elaborata, la dizione di questo signore. Io ancora mi stupisco del fatto che ci siano delle persone che hanno intenzione di interloquire in codesto modo con il sottoscritto. Cioè, mi sembra aberrante la metodologia con la quale... Devi fare Fusaro. Quanto nervoso fa? Quanto nervoso fa quando uno ti si rivolge così? Oggettivamente, adesso io ho rivisto in queste ore la gheghina, lo scontro tra Di Pietro e... era costruito, era tutto originale, no, tutto... ho detto gheghina, ma insomma, lo scontro. Tutto vero, sicuramente tra Di Pietro e Fusaro, nell'ottima aria che tira, condotto magistralmente da Mirta Merlin. Allora... E voglio dirti che veramente è agghiacciante quella modalità che lui ha. Cioè, ti manda in mano. Io anche solo sentirlo, davo delle capocciate al telefonino quando rivedevo il video. Cioè, mi dava. Gli voglio bene, Fusaro, la penso al posto suo. Sì, ma sentirlo argomentare in quel modo. Perché lei si adira? Vaffanculo! Cioè, se uno mi dice così, io veramente è un. Non lo so. Ma... Allora, ragazzi, non so se avete sentito prima nello splendido mix realizzato dal signor La Corte, dalla vostra parte, Bel Pietro, eccetera, c'era quel signore di colore che parlava di spaccio, no? Dove prendere l'erba, eccetera. Risorsa, come direbbe qualcuno, una risorsa nel nostro paese che fa lo spacciatore. Beh sì, una risorsa, secondo alcuni, no? Niente. Che fa lo spacciatore. Ma non c'entra niente. Aspetta, fermo lì. Allora, questo signore è stato oggi, la notizia è incredibile, che questo signore è stato arrestato. Bene. Devi essere felice di questo. No, è stato arrestato perché portava, e la polizia lo conosceva benissimo, portava 10 grammi di Maria nei calzini. Capirai. Come capirai? 10 grammi di marijuana. Allora, per me dovrebbe essere legalizzata, figurati che cazzo me ne frega a me. 10 grammi di marijuana. 10 grammi portata, di marijuana dentro i calzini. Poi resistenza pubblico ufficiale perché lo stavano per arrestare, lì litigava con qualche cliente sul prezzo, insomma, stava facendo un po' di casino e lo hanno in gabbie. Lo hanno in gabbie. Ragazzi, comunque io sbrocco davanti a queste cose. Sentite questa: Cesare e Camilla, primo sì a quattro zampe. A San Zenone, provincia di Treviso, il catering Mansarda organizza nozze tra cani. La titolare, c'è richiesta del pubblico. Un tempo la chiamavano vita da cani, cucce di fortuna, avanzi come cibo e pulci d'ordinanza, preistoria. Oggi gli amici a quattro zampe sono amati, vezzeggiati, coccolati, profumati. Troppo? Per i padroni l'amore canino non è mai troppo. Da qualche anno nei negozi specializzati è un tributo di abiti, fragranze, giacigli regali, passeggini per portare a spasso cani sempre più chic. E che fare di cotanta bellezza? Beh, a San Zenone il proprio fedele amico lo si può anche far convolare a nozze. Cioè, questi organizzano le nozze tra cani. Sono dei geni. E quelli che portano i cani e quelli che portano i cani a sposarsi, Cesare e Camilla. Mi dispiace non aver portato le mie telecamere lì. Io avrei fatto in diretta, amico mio. Vorrei fare dobbiamo farlo in diretta il matrimonio di due cani, bellissimo. Sono dei geni questi qui. Tu dovresti abbracciarli e valorizzare il talento. Quelli che portano i cani sono persone alternativamente disturbati. Possono scegli tu tra disturbati, così ricchi da potersi permettere questo spizio. E allora invece se sono ricchi e fanno circolare l'economia in questo modo, ben venga, benissimo. Ma potrebbero ristrutturare un campo a Roma anziché far sposare dei cani. Ristrutturare un campo a Roma, cioè regalare denaro a potrebbero assumere loro Sabaeda anziché far sposare due cani. Assumete voi la signora Sabaeda. Sabaeda è diventato anche l'esegeta del nome Angelo della signora. Angelo da Milano, adesso. Dai. Angelo da Milano. Pronto. Dimmi Angelo, dimmi. Beppe, io chiamavo per te. Perché avevo per me già in che chiamato... senso? Scusa, quello di prima è scomparso? Male, l'ascoltatore di prima è scomparso o no? C'è ancora? Ma non era quello, non era un altro, cioè non eri tu, era un altro. Quello di prima che voleva dirmi delle cose su Weinstein. Vai, Angelo, dimmi. Beppe, io chiamo perché non lo devi fare. Devi stare calmo, non devi esagerare, devi stare tranquillo, perché sappiamo tutti che tu vuoi farla finita. Cioè, ti si legge, sei più spento, sei strano, sei innaturato. No, aspetta, fermala. Innanzitutto devi... Angelo, devi pagare... Ma ho capito, devi pagare, devi... Sì, pagare. Pagare sicuramente dovresti pagare per quello che dici. Ma devi parlare meglio. Non so come sei collegato, non lo voglio più ripetere questa storia qua. Ma o ti colleghi bene, oppure le tue stronzate barra cose intelligentissime... Sono collegato bene. Bene. Allora, Angelo, dunque... Normalmente. Ti stavo dicendo che si vede che questa tua sofferenza, anche nel modo che hai ormai di reagire quando non prende un po' la linea. La volta scorsa Parenza ha tossito mezza volta, gli hai dato addosso. Cioè adesso sei stanco, cioè sei in linea con Adinolfi. Eccolo psicologo. Su questa cosa. A me non interessa. Ma cosa vuol dire essere in linea con... Io non sono in linea con nessuno. Io sono su questa... Ma che cazzo dici? Ma io su questa storia qui sono in linea con Adinolfi, perché non è che ho i paraocchi, non è che ogni cosa che dice Adinolfi è una cazzata. In questo caso ha ragione il vecchio Adinolfi. Ma sei diventato assistenzialista, hai fatto una petizione da 40.000, 10.000 firme per assumere una roba. Assistenzialista che c'entra? Mica la paga lo Stato, imbecille. Sei diventato un assistenzialista, ormai vuoi... Ma poi non ho capito che cos'è che hai detto. Mi pare anche che usi una ottima argomentazione. Cos'è che hai detto? Non ho capito che cosa ha detto, che la voglio fare finita, non ho capito. Tu vuoi compiere il gesto estremo, Beppe. Secondo me tu hai un'escalation verso un gesto estremo. Cioè tu dici sono uno che vuole farsi del male, mi voglio ammazzare. Sai quando ho capito veramente che poteva essere serio? Cazzo, questo lo devo assumere io, questo qua. Sai quando devo assumere come psicologo, non l'INPS, il psicologo. Vai, Angelo. Ma io ho capito veramente che poteva essere una roba seria quando... Andiamo sul lettino, Belen e la moglie del capitano si sono baciati. Baciate in diretta, tu non hai detto una parola. Guarda, non ci sono più lesbiche alla zanzara. Allora, e amico mio, allora, capisco la tua ironia. A me del fatto che Belen e Ilary Blasi si siano baciati in televisione non me ne frega. Posso dire? Sarò controcorrente, non sarò troppo nazional popolare, lo sono su alcune cose, non su altre. A me non me ne frega un cazzo. Niente, zero. Zero. Maurizio da Frosinone, vedo la parola lesbica scritta là però. Maurizio da Frosinone. Cruciale, io sono innamorato di te, sono veramente innamorato di te. No, devi stare tranquillo. Maurizio, dimmi. Io ti ascolto sempre. Bella che sono 5 mesi che basta. Niente, non si sente. Mirko da Latina era quello malissimo, di prima, vai. Malissimo. Mirko, sì, eccomi di nuovo. Allora, che vuoi tu? Dimmi. No, ti volevo completare il ragionamento che stavo facendo. No, non parlare di ragionamento in questa trasmissione, perché quando parli di ragionamento mi viene l'itterizia, mi viene la gotta, mi viene da stare male. Il ragionamento. Allora, Weinstein è un produttore cinematografico, quindi vuole fare un sacco di soldi facendo bei film, perché la gente vuole vedere i bei film. Vabbè, allora? Quindi per avere bei film servono le migliori attrici. Ora lui come le seleziona? A letto? Non ho capito. No, lui potrebbe avere le attrici migliori del mondo. Possiamo dire una cosa molto semplice: Weinstein è uno a cui piace la figa. Cioè, punto e basta. In maniera ma questo anche se cosa voi vuol dire? Perché devi giustificarlo? Non sto giustificando. Perché devi giustificarlo? Io non sto giustificando perché niente. Tu dovresti attaccare questa gente. Se uno è un grande talento e fa il produttore, non è che necessariamente deve fare anche il cacciatore di gnocca. Non mi pare, può usare, non mi pare che abbia potere. Ricattato nessuno. Non puoi dire non mi pare che abbia forzato così. Nessuno. Ma non è ricattato. Se tu chiedi, come fai a non ma capire che cazzo la cazzo me ne frega il contesto, è sempre così, che l'uomo cerchi la figa anche in maniera esasperata, è sempre stato così e sempre sarà così. Male. Ma che e vuoi trasformare? Dico, che vuoi trasformare il cervello dell'uomo? Nei luoghi di potere, ci vogliono più donne nei luoghi apicali, nei luoghi di potere. Diglielo tu che sei della maggioranza. Ad esempio, ti voglio dire, ci fossero vulgara silenziosa, invece tu di queste cose, potevamo essere una grande maggioranza. Donne nei luoghi di potere diminuiscono la questione sessuale dalla questione del lavoro. Le attrici migliori del mondo, lui sceglie le attrici che vanno a letto con lui facendo dei film peggiori, perché se prendi a Sargento non è che fai Ben Hur poi. Ma che c'entra? Dai, questo c'entra. Vabbè, ciao Mirko, ciao. A proposito di donne, ragazzi, di donne violente, di donne che rovinano l'esistenza degli uomini, perché si parla sempre di femminicidi. Ho visto la storia di questo attore di Zelig, simpaticissimo, di questo che vuoi parlare. No, ma vedi certo, che so violenza tutto, delle donne tutto, sui padri, fermo, violenza delle donne sui padri, questo Della Noce, comico di Zelig, dice di essere finito in mezzo a una strada, ci dobbiamo credere, naturalmente, in una macchina, addirittura letteralmente in mezzo alla strada, per colpa delle pretese della moglie. Ma queste qua sono dei personaggi assurdi. Lo sai benissimo anche tu, non perché ti hanno messo in mezzo alla strada, per carità, però poteva accadere anche, no? Cioè può accadere a tutti, anche alle persone. Ho capito, ma se becchi quella sbagliata, se becchi quella che ti fa un buco di culo così, che ti fa un buco di culo così, è accaduto perché siamo persone che abbiamo sposato, perché questo qua che è un coglione, allora evidentemente ha sposato una persona non per bene. Ma che c'entra, il matrimonio cambia tutto, ma non lo sai benissimo meglio di me, ragazzi. Prendete esempio da questo signore. Sentiremo degli audio di questo qua. Non fatelo finché siete in tempo. Non fatelo, amici miei. Non fatelo mai. O comunque non rifatelo. Se l'avete fatto una volta, posso capire. Io l'ho fatto. Non rifatelo mai il matrimonio. Ma perché? Non rifatelo. Non rifatelo. Non rifatelo. Ma tu sei un distruttore anche di famiglie, di non affetti. Non rifatelo. Cioè, tu non solo distruggi le imprese. Questo già sarebbe gravissimo. Senti questo. Distruggi le famiglie. Senti che dice questo. Senti. Sono arrivato a un punto che neanch'io avrei mai immaginato di arrivare, perché sono rimasto senza lavoro, ho avuto lo sfratto dal giudice, dall'ufficiale giudiziario, quindi io sono più di 20 giorni che non ho casa e non ho neanche più una famiglia. Poltrini, scusami, sei una brava ragazza. Poltrini, sei un'amica dei cristiani ed è morta. Intervengano i commessi. Poltrini, ed è morta. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Renzo, quando dici le parolacce mi ecciti. Vi prego, smettetela con la Sargento. Questo è il suo picco di popolarità. Boldrini ad Ase Argento. Non ci lasciare. Non lasciare l'Italia. Magari avesse detto vengo con te. Io comunque è tutta notte che ci penso, ma com'è possibile? Non è credibile, dai, che Morgan non abbia mai mangiato la patata ad Ase Argento. Non è credibile, non ci credo. Ragazzi, non lo rifate. Se l'avete fatto una volta e già, per carità, può accadere, si fanno anche gli errori più grandi, eccetera. Non lo rifate. Non vi risposate. Sentite, guardate quello che è successo al comico di Zelig, come si chiama, Della Noce. Ma che vuol dire niente, dai? Che è finito in mezzo a una strada, letteralmente, per colpa delle pretese della ex moglie che l'ha massacrato, vive dentro una macchina. Ma è stato sfortunato perché ha trovato un'arpia, ma non vuol dire niente. Il matrimonio è una delle cose più belle, ragazzi, che si possono fare. Ragazzi, è l'incontro e la promessa di sentite, due persone che dicono ci ameremo in eterno, sentite, come diceva il poeta Catullo. Sentite. Dai. Io ero partito da 3.500 euro al mese per due bambini, poi dopo alla prima crisi economica ho fatto ricorso e mi hanno messo 2.500 euro, fino a che adesso sono 1.500 euro al mese. Solo che la crisi del lavoro faceva sì che io non potessi garantire il mensile. Questo tracollo ha cominciato a portare sempre meno lavoro. Poi io, senza accorgermi, sono caduto in una depressione abbastanza aggressiva e infatti sono in cura all'ospedale di Niguarda. E così, piano piano, sono sceso in questo limbo. Ho trovato molta solidarietà nelle persone comuni, ecco, quello sì, persone che hanno saputo la mia storia, gliel'ho raccontata e forse appunto perché meno male li ho fatti ridere nel passato. Prima ho fatto la battuta, 35 anni che faccio ridere e oggi non c'è nessuno che mi fa sorridere. Poi tra l'altro sono un papà, un genitore, quindi i miei figli sono legati e cominciano ad avere anche loro un po'. Perché vedono una parte che vive in un modo e il papà che è andato in strada, ecco. Ragazzi, non lo rifate, se l'avete già fatto non lo rifate, la cazzata si fa una volta sola. Ma questo non c'entra niente. La cazzata si fa una volta sola. Stai dicendo cose che non c'entrano nulla, allora, cioè la tragedia di quest'uomo non dipende dal fatto che ha trovato i giudici che magari guarda, hanno sbagliato. Ma guarda che ce ne stanno parecchie di situazioni come queste, ce ne stanno un sacco, sì, di situazioni certo. Come queste, lo sai meglio di me, uomini in mezzo alla strada, bistrattati, massacrati, l'idea, il mito della donna buona, il mito della donna, no, che migliora il mondo. Sai che sì, io penso che tu odi le donne. No, io penso. Tutt'altro, assolutamente no. Ma non ho penso nessun mito, non esiste donne, nessun mito. Voi parlate per stereotipi, ma io no. La differenza è che no. Voi parlate esistono... per stereotipi. Ma non tu è vero, e quelli come te situazioni parlate diverse. Per stereotipi, la donna esistono buona situazioni diverse. Che può è migliorare il mondo. La stessa cosa di Rom Rubano è uguale. Che può è migliorare il mondo. No, ma io ma non siete degli... Tu pensi che le donne possano migliorare il mondo? Io penso che non cambia un cazzo. Penso che abbiano rispetto a noi maschietti, abbiano cosa? Una marcia in più. Ma che cazzo hanno dici? Un modo diverso di approcciarsi alle cose è una marcia in più. Ma è una e penso che in generale, come regola generale, laddove governano le donne c'è meno, non c'è ricatto sessuale. Ma è una puttanata, le guerre. Pensaci, ad esempio. La Thatcher ha fatto noi un sacco di guerre. Noi uomini abbiamo altri pregi, siamo ma meno emotivi, ad esempio. Noi uomini abbiamo altri pregi, ma le donne ma hanno un pregio su tutti, ma che è quella capacità di vedere le cose in modo diverso da noi e quindi di trovare delle soluzioni. Ma te veramente ragazzi no, veramente a te dovrebbero team. Dare il premio della banalità. Ma perché non no, esiste no, un premio? Il premio ma banalità vero, ma le donne molti. Voglio dirti, lo vediamo porca anche puttana, nel nostro quotidiano, ma è pazzesco. Nei team building dei ma team building che alle volte ho costruito cazzo, parliamo delle redazioni nelle redazioni giornalistiche delle quali ho ma avuto il piacere di lavorare. Non mi parlare, non ho mi parlare sempre di quello, avuto le donne hanno sempre dato un contributo. Le peggiori, io ho incontrato sempre le peggiori, ti assicuro, le peggiori. Ma Giorgio da Pavia, sì, Giorgio da Pavia, ragazzi, è una puttanata. Sfortunato. Hanno gli stessi io pregi. Io ho sempre voluto donne nei miei basta. Gruppi di lavoro perché vabbè. Hanno una sensibilità ma e una capacità di risolvere ancora? I problemi e di vedere le cose alle volte migliori degli Mister uomini. Banalità. Ma non è vero. Giorgio apri da i microfoni, sentiamo in giro. Sono già apri aperti, i microfoni. Giorgio apri da Pavia. I microfoni. Ma sono già aperti. Aprili. Sono già aperti. E perché non chiamano? Scusa, non capisco perché non telefonano. Giorgio da Pavia. Sì, due cose velocissime. Mister Banalità. Sì, la prima veramente, sono d'accordo con Cruciani al 100%. Miserabile, viviamo in un paese di, no, viviamo in un paese di ipocriti, perché ma veramente sì, pensare ecco. Ancora che ci sia un diritto di famiglia in cui la donna sia sedotta e abbandonata come negli anni ma 40. Ma chi vuol dire? Ma questo certo, è vero, ma avete come? Ragione. Ma è pieno io di sentenze, ma chiedete alla Bernardini De Pace, Giorgio, è allora, pieno di sentenze Giorgio, a favore allora, degli uomini per fortuna. Io ci sono passato da questo calvario, ma non perché avessi una donna particolarmente arpia, avevo un giudice che era arpia ed era una donna, quindi voglio dire, capisco e sono solidale con tutte le persone che ci passano e veramente arrivo a dire anch'io, combattere una volta sola questa cazzata, perché se le persone vogliono stare insieme, uomini o donne che siano, lo possono fare liberamente. Ma quello è un contratto che poi ti fanno un culo così, i tribunali, le cose, mandate a fare contratto, il culo. Senza questo contratto ipocrita. Poi non sai, le persone si trasformano nel tempo, all'inizio sembrano tutte pacifiche, tranquille, o pacifiche al contrario, il problema è uno solo, di avere ancora questo Vaticano in mezzo ai coglioni, che purtroppo crea questa situazione, perché in altri paesi liberi, sì. Io ho due amici splendidi, una coppia gay sposata da 20 anni, e si sono meravigliati di: ma come, non vai in comune con una marca da bollo a divorziare? Spendi 10.000 euro da un avvocato. Vabbè, adesso è più facile anche in Italia, dai, adesso è più facile anche. Mario da Napoli, anzi, fermo. Chiedo scusa, un momento, chiedo scusa, pubblicità? La Zanzara. Diego da Savona, vai Diego. Tanto fermi tutti, che fra poco avremo con noi Rocco Siffredi, Rocco Siffredi sulla vicenda Asia Argento in collegamento da Budapest. Fermi tutti, c'è anche una storia, perché vogliono, si oppongono al fatto che faccia il presidente di una giuria o il testimonial di un premio nel paese di Santa Maria Goretti e Rocco Siffredi uno accanto all'altro. Bah, vai, chi c'era? Che ho detto? Diego? Diego, eccomi, vai. Sono vai. Qua, ciao vai. Giuseppe, ciao David. Brevemente, chiamatemi Rocco intanto, ripristinate il collegamento, mettete come dire, tutte le cose a posto, mettete il collegamento a posto con Budapest. Vai Diego, dimmi. Allora, velocemente, io sono completamente contrario a questa cosa del Parenzo assumi la Roma, è una grandissima stronzata, perché bravo, dovrebbe assumere bravo. La Roma? Che motivo ha di fare... Prima di tutto è una distorsione del mercato. Ma ragazzi, ma è anche un gioco nostro, che cazzo vuol dire? Però è anche, oltre che un gioco, è anche una cosa buona, giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, per un motivo molto semplice. No. Devi dare un segnale, No, allora però fammi finire, Giuseppe, sì. Non deve assumerla. Perché questa non sa fare un cazzo, cosa la sua? Ma che ne sai? Dice che sa pulire? Come no? Dice di sì, sa cucinare cose buone. Ma lui ce l'ha già una persona, ma sa pulire, una forse persona. Anche ripulire. Allora, no, allora perché lei sì e un'altra no. No, non ci siamo. No. Ma che non c'entra? Deve assumerla assolutamente. No. Ciao Diego, ciao. Deve ciao. No, aspetta, fammi finire. Deve prenderla tipo Maifferlesi. Pigmaglione e Maifferlesi. Allora sì, allora sarebbe un messaggio forte. Ciao. Deve educarla, ripulirla. Ciao. Abbiamo con noi Rocco Siffredi, ciao Rocco! Ciao, grandissimo! Come stai? Très bien, tutto a posto. Senti, ma è vero che fai parte di una giuria? Beh, al lavoro, perché non è un lavoro suo. No, voglio dire, adesso lo abbraccio. Ma tu pensi che sia uno sporcaccione? Non è uno sporcaccione. No, uno... quello perché... C'è grande professionismo. Oramai io ero convinto che tu eri diventato un mio fan, che rispettavi il mio lavoro. Invece, vedo, sei sempre titubante. Sì, è sempre titubante. In fondo, molto in fondo, sì. Tu apprezzi il mio lavoro perché sai che sono una persona seria. Sì, assolutamente. Una persona serissima, io scherzo, ovviamente ti considero anche però, davvero, stimo moltissimo. Però a mio figlio, ma perché non lo auguro a mio figlio? Quel lavoro dice sempre così: non lo auguro a mio figlio, ma guarda, neanche io al mio. Dico solo che mi impressiona un po' quando dice che è al lavoro, perché lo immagino al lavoro. Ma è un lavoro, solo quello. Un giorno io a te, Cruciani, ti inviterò sul set e tu mi dirai gli mortacci. Il lavoro duro che fai, giuro, è più duro il tuo lavoro che di quello di uno, che ne so, di un impiegato, sicuramente. Però ti usuri con molto piacere. Senti, allora, io non ho capito se tu fai parte della giuria di questo premio nella città di Santa Maria Goretti o no? Credo che sono semplicemente una guest, non credo di fare. Ma non ci vai? Alla fine ci vai o no? Perché qualcuno dice no, Rocco, ci vai. Ci vado, te lo confermo, ci vado. Ci vai e te ne freghi totalmente. Il giorno dopo magari avessi tutta la città contro, poi tu sai che io ho sempre il modo di farmi perdonare, lo trovo, quindi saprò in che senso, come scusa? Farmi perdonare. Ma li convinco che poi non è così sbagliato, che c'entra Santa Maria Goretti con Siffredi che è un personaggio troppo estremo. Ma che estremo? No, sono ma infatti, una persona seria. Ma poi a parte... Sono una persona che adora la famiglia, sono una persona di principi. Cioè, accanto a Santa Maria Goretti non sfiguri, questo è il punto. No. neanche un po'. Senti una cosa, ma la vicenda di Asia Argento l'hai seguita? Come no? Ma no? Che ti pare? Cioè, ha ragione o torto? Questo lei, Weinstein, l'hai conosciuto? Veramente, ti dico, sono d'accordo con Libero, sono d'accordo con te, sono d'accordo con tutte le persone che dicono perché ci hai messo 20 anni sì. per uscire fuori, perché sì. fai la vittima e soprattutto, sì. purtroppo, sì. funziona da 1000 anni che chi fa cinema tradizionale è abituato a fare questo, ma io ti potrei fare 1000 altri nomi di persone che hanno fatto dei casting hard sì. per fare una parte in un film dove devono parlare, devono recitare. Però voglio dire, quello che mi fa ancora a me veramente più schifo è questo voler fare il vittimismo dopo 20 anni, dopo aver io sono d'accordo, guarda, con Vladimir Luxuria, l'ho sentito da voi, ha esattamente detto la verità, ma perché strumentalizzare la donna, strumentalizzare il fatto della violenza sulla che donna, delle donne che devono subire, che non c'è un cazzo, che sei stata tu a decidere di farlo per essere sicura di avere quella parte. Ma di che parliamo? Scusami un attimo, ma ha detto che vuole andare via dall'Italia adesso, che non sa se torna in Italia. Ma è normale che vuole andare via, perché Asia, nonostante tutto, a me mi ha sempre fatto molto arrapare Asia. Un giorno mi è stato anche proposto di fare l'attore per un film porno che lei voleva dirigere attraverso un amico in comune, che poi però lei ci ha ripensato. Peccato. Sì, mi scade quando ci tratta un po' da deficienti, perché questo è voler far passare l'italiano dei coglioni. Tu non puoi decidere di andare a scopare con un maiale o un bellissimo ragazzo e poi farla pesare a tutti gli italiani che ti dicono: ah, ti è piaciuto fare l'attrice in quel film? È inutile che ti stai a lamentare, va bene così. Qualcuno dice che è stato uno scambio adesso, una specie di rapporto di prostituzione, cioè uno per ottenere un qualcosa, per non avere danni, è giustissimo, ognuno di noi ha un prezzo, cioè ce lo dobbiamo ricordare, ognuno di noi ha un prezzo. L'hai conosciuto questo Weinstein? È veramente così un maiale, insomma, è uno che... Gli piace molto la figa e utilizza il potere. Ragazzi, il potere è la massima espressione di perversione. Non c'è niente che ti fa drizzare di più che dire: oggi decido io su di te, mi succhi il cazzo se hai voglia della parte. Ma lo sai in quante gliel'hanno succhiato il cazzo? Sì, ma non c'è dubbio. Mi pare un po' eccessiva come immagine. Ma no, è così, la realtà è realistica. Non è neanche eccessiva per un po'. Parenzo, vuoi sapere il mio punto di vista su Asia? No, secondo me si è pentita anche lei, però voglio dirti, ragazzi, nessuno gliel'ha obbligato. Certo, sai quante donne vorrebbero fare le attrici in Italia e vanno la mattina a lavorare, vanno a lavare per terra? Ma lei non aveva bisogno di quel produttore lì, perché era già fortunata nascendo in una famiglia di cineasti. Allora spiegami perché ragazzi miei, intanto a me, io rifiuto di fare la moviola su quella violenza, per non essere danneggiata nella carriera, l'ha detto lei, perché quello era potente. Io rifiuto questo meccanismo che avete di sparare in testa a una persona che già ha sofferto tantissimo. Ma quale sparare in testa? È una persona che ha sofferto, perché non le andava. Aspetta, sofferto tantissimo, lei ha deciso, è adulta, consenziente, si è trovata in quel contesto quello che lì voleva fare. Lo stupro dei potenti è molto più subdolo, perché ovviamente non ha quella dinamica di violenza che ma può non avere è questo il caso nera. Non è un suo superiore, ma questo ha una pressione silenzio psicologica molto forte e tu in quel contesto, vabbè, chiuso in quella meravigliosa camera d'albergo a 5 stelle, scegli di andarci. No, scegli alla ragazzo, fine allora, scegli. No. Concludo, fammi sentire Rocco. Di Weinstein è pieno il mondo del cinema, e non solo cinema ma anche televisivo, pieno, giornalisti. Quindi se adesso tu continui a dire poverini, sto cazzo poverini, perché quando tu decidi, hai la possibilità di decidere, mollo, vado via, quale potere? Quello non ha mica messo le mani addosso a qualcuno, non ti faccio uscire dalla stanza. Certo. Mia moglie, lo sai cosa ha detto? Io glielo staccavo l'uccello se non volevo. Non esiste un uomo che può violentare una donna se, giustamente come dici tu, non viene presa, bloccata, non che tu sia dentro un hotel 5 stelle, trattata come una superstar. E anche quella è una violenza. E non hai il coraggio di dire ma no, perché ti senti in imbarazzo, ti senti in soggezione. Sei imbarazzata, sei in soggezione. No, ma ragazzi, non capite una cosa, magari sono come si chiama? Interscambio, bravo. Interscambio. No, non c'è nessun interscambio. Ma come no? L'imbarazzo. Ma l'ha detto anche lei, l'ha detto. Che si trova in una condizione di essere a contatto con una persona potente e che magari tu frequenti anche, lo conosci, cioè la cosa che ti blocca. Ma non sei obbligata. È proprio quella cosa lì. Ma non sei obbligata, lì. Ha detto bene, non, la moglie, e chiuderei su questo, la moglie, di, dai, la moglie di Rocco, ragazzi, ha detto siete che cosa? Terminiamo siete. Con questa citazione lapidaria. No, terminiamo dicendo che siete incredibili. Vabbè, d'accordo, terminiamo questa intervista dicendo che siete no, due ma la persone incredibili. La citazione poi ognuno vabbè. Dirà se incredibili in positivo o in negativo. Siamo persone di questo mondo e non del mondo che tu ti immagini. Devono cambiare, questo mondo è molto diverso. Devono cambiare uomini e donne che dicono di no, perché anche gli uomini ci sono. Uomini e donne che dicono no, i porci ci saranno sempre, quelli che ci provano sempre, ci saranno sempre. Sempre. Allora, la frase di tua moglie che ha detto, io fossi stata lì? Gli staccavo l'uccello con la bocca, glielo sputavo in faccia, questa è la verità. Sì. Ma non mi venire a dire le stronzate che una ragazza maggiorenne che ha un'esperienza di vita, che ha un papà, è nata nel cinema, la mamma attrice, conosce il set, viene a dirmi poverina davanti a questo produttore super reale di Hollywood, si è cagata addosso e ha accettato qualsiasi cosa, e poi non una volta, più volte. Dai, non dimentichiamo Parenzo che recidiva la signorina, la signora Argento, quindi dai, non sta in piedi, poverina. Se ne è uscita questa storia qua perché oggi tu sai che ci sarà un processo penale e forse un po' di milioni di euro di questo signor produttore super top devono andare a rimborso. Sì. Chi lo sa se non c'è anche quell'idea di qualcuno dice di anche pagare? Qualcuno dice anche che tanti. Qualcuno dice anche che ormai diciamo è una nuova botta di notorietà. Diciamo, no, una nuova ma botta. Sì, c'è di tutto. Guarda, qui puoi mettere proprio tante sfaccettature. Ciao, ti abbraccio. Ciao, ciao. Oggi sarò qui a Montecitorio. Fiduci, se avete coraggio, scendete a parlare con me. Diritti e doveri, 1.000 euro. Vergogna! E io pago la tonnellata di vostri imputi. Fiduci! Ho strappato l'Inps. La zanzara. Perché è alla frutta. È alla frutta. Il suo audience sta andando a picco. Loro hanno voluto fare i bastardi. Io sono venuto a sapere che loro mi denigrano alla 7. E alla 7, sai cosa gli ha detto Cairo e i suoi collaboratori? Ma si due imbecilli fa, mi vogliono portare un youtuber che fa 300 e 500 visualizzazioni, sto tipo Mauro Marco da Mantova, questo qua lo svernicia, ma questo qua ne fa 15.000, ma come si fa a propormi un youtuber che non lo caga nessuno quando c'è l'interventista lì di Radio 24, la Liga della Zanzara, che ne fa 34 volte di più, ma questi fa sono due imbecilli. Questo è quello che ha detto Cairo ai suoi collaboratori quando ha guardato su YouTuber. Ha detto, ma quell'altro tipo fa Mauro Marco da Mantova. Cosa ne fa? Ne fa un bel po'. Fa, come un bel po'? Qui si parla di 3, 5 e fino a 15.000 visualizzazioni. Allora Cairo dice, ma questi due qua sono due imbecilli. Ma cosa mi portano sto donato da Varese che fa 300-500 visualizzazioni, che questo ne fa 5.000 o 15.000? Ma questi sono due cretini, sono due coglioni. E io dovrei intervenire a ogni volta per fargli prendere più soldi a Cruciani e a Parenzo? Fottetevi! Ragazzi miei, caro Parenzo, non so se hai sentito bene. Ma ho sentito, ma questo sta sempre peggio, poveretto. Ma questo qua, cioè, secondo lui, per... no, no, ricostruiamo per chi no, non sa, non, c'è da non conosce i personaggi. Aspetta, allora, Mauro D'Amanto è una persona anche cara, perché a me, ma cara, per, è un povero disturbato imbecille. Vabbè, questo lo dici tu, eccetera. Ma no, ma che Dio, è evidente. Allora, signor dai. Mauro D'Amanto, vabbè, è uno che per tanti anni è intervenuto in questa trasmissione. Io gli voglio anche bene al signor ma Mauro D'Amanto. Bene, ma sì, io lo voglio è vedere... un grande complottista, è una specie di. E segue il personaggio inventato da Crozza. Come si chiama là il personaggio? Quello che sta sempre alla tastiera. Napalm 51, che è Napalm 51. E quello che sta sempre alla tastiera su internet a imbeire, complottista, eccetera. Ma ci, vabbè, sta, insomma, ci è, sta. È un imbecille. È un, vabbè, insomma, questo. Risolviamo in modo molto, allora, molto questo semplice. Signore, questo signore Mauro D'Amanto è un povero imbecille. Si è incazzato, dai, si è incazzato perché noi a un certo punto non lo facciamo intervenire per l'unica un periodo. L'unica decisione non lo so. Seria che hai avuto. No, negli ma io non anni. È vero nemmeno questo. È perché comunque, per una, la prima settimana di trasmissione di quest'anno, la prima settimana, adesso magari annoiamo qualcuno. La prima settimana non è intervenuto, invece è intervenuto Donato Davarese. D'accordo. Il punto è un altro. Adesso oggettivamente, diciamolo, è stato messo anche sotto contratto, diciamolo. Ma non è cioè, vero adesso. Sì, sì, sì. Ah, no. Cioè, diciamo anche questa cosa vergognosa. Se è riuscito a far mettere sotto contratto Donato Davarese, in una situazione per il paese drammatica, tu paghi Donato Davarese. Cioè, io questa cosa qui la trovo veramente vergognosa. Perché che insegnamento dai? Tu hai messo sotto contratto. Ma non è vero. Cioè, una cosa che io vorrei falso, che la gente, ragazzi, lo falso, sapesse. Vorrei che i vertici dei nostri capi, ma non è vero, questo, non è vero, non è vero. Ma intanto io l'ho detto, poi dopo andiamo a dimostrare. Intanto una diffamazione l'hai fatta, vedi come funziona, no? Vabbè, comunque, ragazzi, qualcuno dei piani alti si allarmerà, sì, adesso può essere, perché, sì, beh, certo, qualcuno, sicuro, ragazzi, ma la storia più incredibile è che adesso io non so da quali fonti arrivino queste cose. Secondo ma lui, perché parli di fonti? Perché? Ma perché devi dire così, gli dai credibilità? Ma non ci so cosa vuol dire fonti? Ah, inventa tutto, delira, amico mio, delira. Ma perché devi dire, cioè, così? Secondo lui, Cairo, ma mi fai male, signor mi fa... Cairo preferirebbe lui, sì, a Donato. Ma secondo te il dottor Urba, ma adesso voglio dire adesso, ma non perché mi hai detto di non ma si no, capisce ma cosa a te, oggettivamente tu non hai nessun conflitto di interesse perché tu non lavori con Cairo, ci lavoro io, quindi chiedo a te, no? Secondo te, ma te lo chiedo a te, io ho conflitto di interessi, quindi posso avere un'idea ma non do risposta, chiedo a te che comunque sei una persona intelligente e ti chiedo, secondo te il dottor Urbano Cairo, che è il proprietario del Torino, del gruppo del Corriere della Sera, della Sette, secondo te, ma te lo chiedo veramente, anche con pietà, anche con pietà, anche con, ma da, mi implora piangendo quasi, te lo chiedo proprio con le lacrime agli occhi, secondo te ma lui sa, ma può avere idea di chi sia questo, sì, Mauro, questo sì, te lo dico, no, questo sì, perché ti imploro di rispondermi, perché se rispondo io tutti possono dire vabbè Parenzo lavora per Cairo e dice è vero, ma lo chiedo a te che non hai secondo te, con tutte le cose che Cairo ha da fare, tra la Gazzetta del Corriere della Sera, il gruppo La Rizzoli, la Sette, ma secondo te sa chi è Mauro? Te lo chiedo, piangendo, ma veramente, perché piangendo, se rispondo io la mando a fare il culo sto Mauro D'Amanto, se rispondo, no, io, ma rispondi tu oggettivamente, è no, verosimile, no, no, ma non sa, sa neanche, ma sì, se tu sa gli chi dici è perché ascolta suo, la Zanzara, sì, lo sa perché l'ascolta, ma se qualche suo collaboratore dice guarda dottore, mi hanno detto che lei vuole prendere Mauro D'Amanto, dice scusa, come? Cioè, ma tu ti rendi conto? Verrebbe cacciato dopo un secondo. Ma neanche. No, e poi è persona di grande spirito l'editore, però voglio dire il presidente, però. Ragazzi, dai, ragazzi. Dai. Rispondi tu, perché se rispondo io. Cioè, guarda, sai cosa vuol dire proprio il fiatone? Perché sto male. Cioè, rispondi tu. Ma Mauro, ma non è vero niente, secondo me, non è vero niente. Beppe da Firenze. Secondo te. No, non è vero niente, oggettivamente. Beppe da Firenze, dai, Beppe da Firenze. Però ciao, chissà, Cucciani, magari poi. Sì, ecco, Beppe, sì, dico, ciao Cucciani, salutami quell'ibrido del voto a perdere di quell'altro lì. Ibrido, gente, sei un poi ibrido, che si sente protagonista e chiama, capito? Vabbè, si sente, si sente in dovere di intervenire su qualunque cosa sta gente, su qualunque cosa. Ma perché deve intervenire su qualunque cosa? Perché? Hai detto vuoto a perdere, sei un deficiente. Mamma mia, ascolta questa, vuoto a perdere, ascolta questa cosa seria. Io faccio volontariato, sono un professore. E sabato accudisco un ragazzo cieco, 19 anni, santo medico. Mi chiama e sabato alle 3 lo devo portare a puttane, perché ha voglia di scopare, capito? Allora, buono, per fortuna che ci sono queste case, per bene, fortuna bene, che bene. Ci sono queste signore, sì. E lo fanno scopare. La strada la trovano solo, ce l'ha sempre duro, e l'ibrido ci dà la possibilità di farlo scopare sto ragazzo. Allora, fermi tutti, questo è molto fermi tutti, ragazzi, questo è molto, molto, molto interessante. Questo è buono. Ma manco per niente. Allora, Beppe da Firenze, che si è, Beppe, come dire, autodefinito un professore di che cosa, professore? Scusa, Beppe. Io insegno l'architettura, insegno tecnologia. Dove? In quali scuole? A Firenze, Firenze. All'università o alle scuole? Sì, università. Cioè sei un professore universitario in pratica. Bene, sì, sì, sì. E faccio tanto volontariato. Dunque, tanto volontariato. Ed è un, dovrebbe essere professore universitario, volontariato, tipico esponente della maggioranza silenziosa parenziana. Mi sembra. Dipende, dipende. Beh, no, come no, professore dipende, universitario. Dipende. Sì, nonché volontariato, sono due indizi. Bravo, sì, tendenzialmente possono essere due ottimi indizi. Esatto. L'eloquio lo ha tradito, però. Ma no! Il ripetuto uso della parola, non voglio cosa, neanche cazzo, dire. L'ho detto. Esatto, il ripetuto uso. Bravissimo, il ripetuto uso di queste, come dire, formule, di queste lo mettono automaticamente ai margini della maggioranza. No, ma scusami, Beppe, però la cosa è molto semplice. Ibrido, ma tu quando ce l'hai duro cosa fai? Ibrido. Lui sta dicendo credo che non sia un accademico italiano questo signore. Non è un accademico italiano. Stai dubitando. Oppure la sua cosa che mi spaventa ancora di più è che la gente che tu vedi in un contesto normale, fuori, quando chiama alla zanzara, si trasforma e si adegua. Perché c'è anche questo fenomeno. C'è, guarda, anche, sì, c'è grande professione. Io ne conosco la violenza, Ibrido. Tu sei un incompiuto, sei un voto a perdere, capito? Perché un incompiuto? È una bella espressione, incompiuto. Te crei problemi. Però crei problemi. Molto buono, te lo fai per soldi, non perché ti piace parlare così, lo fai per soldi. Però Ibrido ha un suo eloquio in realtà, si insiste troppo su Ibrido. Però Beppe, scusami un attimo, allora, questo cieco che però adesso uno non può raccontare una cosa così e lasciarla cadere, dovresti ma portarcelo, è una cosa seria. Dovresti portarlo a questi microfoni, scusami Beppe, cioè dovresti fare. Ma domani sera te lo porto ai microfoni. Oh, molto bene, molto interessante. Allora, questo qua il mio numero ce l'hai, domani sera te lo porto. Questo qua è un numero una cosa interessante, 19 anni mi sembra 19 di anni, Gian Domenico, viva Calenzano, vicino Firenze. Calenzano pieno di puttane, mi hanno detto, però attenzione. No, non ci sono più perché il sindaco comunista, amico del Ibrido, li ha levati dalla strada, ma ha fatto anche bene questo. Ma come ha fatto bene? Tu dici meglio che siano dentro le case, no, che ma per io le strade. Io li porto nelle case, ci sono un giro di case d'appuntamenti abusive e lo porto dentro le case. Poi ti dico una cosa, c'è un secondo braccio di puttane, che sono le famose sposine, che dicono che lo fanno per arrotondare. Arrotondare intanto chiavano a destra e chiavano a sinistra. E fanno del bene, perché sti ragazzi, che è un povero cieco, vive alla scuola cieca di Firenze, studia lì, abita a Calenzano in una famiglia per bene, e anche lui ha dei bisogni fisici, no? Come l'abbiamo tutti, capito, Ibrido? Se non lo porto lì, dove lo porto? Allora, ragazzi, ma penso che questa pratica qui sia anche utile per chi ha delle disabilità e quindi non può avere una sessualità normale. Dopodiché, no, ma restiamo sul punto, scusami. Che questo fenomeno si regolarizzasse in modo tale da accertarsi che le ragazze non siano, no, come vabbè, dire, adesso fruttate. Non ci fare la cosa professionale, torniamo al racconto meraviglioso che ci sta andate facendo. Andate a fare in culo. Allora, detta molto, molto volgare, questo cosiddetto professore universitario. No, non ci credi, tu non ci credi. Ma neanche se lo vedo insegnare. Cioè, se lo vedo insegnare penso che sia un film di Monicelli. Io sono molto però. Bravo Ibrido, ti ho incontrato anche a Siena. Io sono molto bravo. Dove mi hai incontrato? Ecco, tutta gente che millanta di avermi incontrato. Ti ricordi quando ma ti cosa dite? A parte eri un pullman, ti ricordi Ibrido? Sì, certo che ero in un ti pullman. Ti ricordi Ibrido? Io ero dietro di te, Ibrido. Era Cruciali. Vabbè, ma allora non è vero che sia un professore. Quando sei in radio, quando sei allora in radio. Non sei un professore. Allora non sei un professore. Allora avevo ragione. No, no, io insegno. Se vuoi ti mando. Ma cosa insegni? Ma dove insegni? Io insegno l'architettura a Firenze. Ma cosa? Che materia? Come ti chiami? Tecnologia. Te lo verifico un attimo. Come si chiama di cognome lei? Ma mi sono già presentato io. Il cognome? Beppe Saltarelli. Giuseppe. Non è vero che sia un professore, però questa storia del cieco, allora se non è vera io mi ti mangio io, come diceva. No, domani sera ti ci faccio parlare. Come dice Sgarbi su Giuseppina, ti mangio il cervello. No, ti mangio il cervello. È interessante Gianluca, è il secondo nome, è interessante anche ascoltarlo quando ci racconta le cose. Sì, vabbè, e poi c'è un problema, poverino, perché io devo aspettare 2 ore fuori ogni volta. E questo è il chiasso. Cioè che dura tanto, dici? Dura tanto, questo è un problema suo perché vabbè, è bloccato. Comunque mandami anche 393-71-71-701 393-71-71-701, mandami anche una foto del signore cieco con i dati. Domani perché mattina te la mando. Va bene, domani ciao, te la mando. Ciao, ciao. Ciao, Mario, ciao, Napoli, Mario, vai, Mario da Napoli. Ciao. Sì, dimmi. Dimmi Mario, dimmi. Allora, solo due parole, no? Risolutive, perché si critica tanto questa mentalità italiana. Allora, il calcio, ti piace il calcio? Forza Svezia, dai, forza Svezia. Perché forza Svezia, Mario? Forza Svezia, punto. Perché Forza Svezia? Scusami, perché? Forza Svezia. Ma perché Forza Svezia adesso europea, così all'improvviso? Italia, europea, novità, Italia fuori dalla mondiale, mi piacciono le novità, mi piacciono. Ma scusa, che fai tu che tu faccio il tifo per la Svezia? A me che cazzo me ne frega? Spiegami. Ah, benissimo. Ma cosa me ne frega a me che tu fai il tifo, che fai il tifo per... La prima cosa che ho detto a Radio 24, ho paura di essere insultato. Ora mi hai insultato, ho molta paura e chiudo. Mi hai insultato, aiuto, Cruciani mi ha insultato. Vabbè Mario, per cosa hai chiamato? Bacio. Per fare buffone, perché mi hai chiamato? Perché hai chiamato Forza Svezia? Ma perché? Cosa ti è preso? Cosa è successo nella tua vita a un certo perché punto? Perché non hai letto un libro? Perché ad esempio oggi non hai letto un bellissimo articolo? Perché oggi non hai letto un articolo molto bello sul Sole 24 Ore anziché telefonare qui? Ma perché? Ma perché? Perché? Cosa ti ha fatto la vita di così negativo da aspettare tre ore? Del popolo svedese, No, ma a me della Svezia non me ne frega un cazzo. Sono più serio. Del popolo svedese. Cioè. Mi è successo, ma l'ho superato completamente. Ma con chi? Con la Svezia? Con chi? Con chi? Cosa ti è successo di negativo? Stamattina mi è successo che un signore molto maleducato ha offeso il mio cane. Mi ha fatto arrabbiare. Ma come l'ha offeso questo cane? Ha detto: a me non mi piace il tuo cane. E che è un'offesa questa? Sì, però qual è il problema? Io voglio chiudere la telefonata. Forza Svezia. Punta. Maurizio da Verona, questo è un credibile. Ciao. Maurizio da Verona. Maurizio, dimmi. Sì, no, niente. Volevo dire soltanto per quanto riguarda quello che ha preso l'ergastolo, no? Sì. Chi ha preso l'ergastolo? Tanta gente ogni giorno prende l'ergastolo, per fortuna, nel mondo. Quello che ha scopato tutte quelle scopate. Quello che ha scopato chi? Quello che ha scopato con l'AIDS, quelle cose lì. L'untore, il famoso untore di Roma. Sì, ma non credo che abbia preso l'ergastolo, hanno chiesto l'ergastolo. Ah, sì, hanno chiesto, però no, il senso della mia chiamata è... Qual è? Io che quell'ergastolo lì lo dividerei anche per quelle che in pratica si sono concesse, ecco perché. Perché? Perché mi sembra abbastanza... Io l'ho visto in TV, però... Scusami, non sembra... questo qua andava con delle donne. Andava con delle donne, mi sembra di capire. Andava con delle donne avendo l'AIDS, l'HIV, quello che è. Ok, d'accordo. Queste qua hanno fatto un errore, che è quello di non usare, come dire, i condoms, una cosa del genere. Sembra che l'errore più grave però l'abbia commesso quello che non gli ha detto che era infetto, diciamo. Certo, no? Io non sto giustificando, non lo sto... Maurizio, però tu, secondo me, non sei mai andato con una col preservativo, secondo me. Vero? No, o sbaglio? Sì, certo. Giusto, sì. O sbaglio? Vedi che te l'ho pizzicato, Maurizio. Perché non è la stessa cosa, Cioè, tu non hai mai usato un preservativo in vita tua? Mai. Ma vai a puttana ogni tanto o no? No, assolutamente. No, io ho avuto... Sei sposato? Ero sposato, separato, divorziato, ho avuto io le mie storie. Tutte le tue storie, però mai usato il preservativo in vita tua? No, mai, perché non lo trovo. Non lo trovi che? Non è la stessa cosa, secondo me. Su questo non c'è dubbio. Su questo non c'è dubbio. Però, amico mio, a un certo punto, caro Maurizio, non so che vita sessuale fai tu. Se fai una vita sessuale. Ma ormai io sono crecchiotto, non è che faccio una gran vita sessuale. No, ho capito, però. Senza preservativo, amico, si beccano le malattie. Non solo le malattie grosse, anche le malattie minime, la signora Candida, sì, infezioni, altre cose. La Candida la curi, non è l'AIDS, no. Ho capito, amico, ma non è una roulette russa, se no. No, cioè è una specie di... Lo so, però... Insomma, però dici, è meglio scopare senza, dici, che... Beh, insomma, dai, non è la stessa cosa, insomma... Tu sei come quelle donne, allora inutile. Poi protesta con le donne che sono andate con l'untore e poi non ha mai messo il preservativo in vita sua. Ma ti rendi conto, Parenzo, della contraddizione enorme di questo signore, questo Maurizio da Verona? Sì, è vero. Questo Maurizio da Verona però... È uno sporcaccione, Beh, uno mezzo sporcaccione o totale sporcaccione. C'è uno squilibrato, dici, perché chiama... No, uno squilibrato proprio no, però sicuramente uno sporcaccione esibizionista. Anche ma perché persona... esibizionista, scusa? Un esibizionista, come lo chiami tu? Lui ride perché si rende conto. Fermo. Allora, il vostro programma, tra parolacce, cazzo, vaffanculo, innanzitutto è di basso livello. La radio la fai tu, sei tu il fenomeno. Ti voglio un fenomeno. Fenomeno. Fenomeno, io non ho capito una cosa, ma che c'entra? Fenomeno sarai tu che guadagnerai 3-4 mila euro al mese, non io. Siete dei volgari e ignoranti. Questo è arrivato lui, Ivan. Non è sbagliato. È arrivato il censore Ivan. Frate, fammi fare il fenomeno. Fenomeno. Vergognatevi. La Zanzara. In diretta sono. Cruciani, smettila di leccare il culo a sgarbi, sei vomitevole, sei veramente una signorinella, ragazzi, quando chiama sgarbi ti metti la coda tra le gambe e lo elogi in un modo che veramente è... così mi mette a disagio, mi crea un disagio, perché veramente ti metti a 90 gradi. Vergognati, ma mantieni lo stesso tono che mantieni con gli altri, con sgarbi, sei un lecchino. Perché è la frutta? La zanzara. Quell'ibrido, ibrido, ibrido, come un mulo. Ibrido vuol dire fatto da tante cose. Guarda che io a mio padre gli ho già sputato in faccia, attento fascio, che non ci metto niente. A me fascio, io fascio. A soccorrega, mica so comunista così, sa! So comunista così! Comunque ragazzi, così, le millennial sono molto più disinibite perché guardano massicce dosi di porno online, ne guardano tantissimo. Invece noi che siamo cresciuti con Moana Pozzi, Cicciolina e grandissimo Rocco che è ancora sul campo, ne guardavamo tantissimo, ne guardavamo, ma purtroppo le nostre colleghe della nostra età non ne guardavano, quindi noi eravamo espertissimi di tutti i segreti del sesso sfrenato e loro non ne avevano un'idea, purtroppo è così. E adesso però le quarantenni stanno ritornando fuori, quarantenni e cinquantenni. Piano piano arriveranno ai livelli delle 25enni. Le analisi sociologiche alla zanzara, caro Davide, le analisi sociologiche. Cosa incredibile. Però c'è da chiamare, se non sbaglio, il professor, un attimo che ripristiniamo sto collegamento, Oggi è la serata dei collegamenti. Fusaro che ci deve raccontare il retroscena della vicenda con Di Pietro. Cioè, ci deve raccontare. Certo. Fusaro, ci sei? Mi senti? Certo che sì, un caro saluto da Diego Fusaro a tutti voi. Si trova, professore, adesso? Dove si trova? Sto recandomi a fare una conferenza filosofica in quel di Brescia per questa sera. Mamma mia, come lotta! Ci sarà anche un po' di topa probabilmente? Ma questo non lo so, ci sarà sicuramente il topos filosofico di una discussione aperta. Non c'è dubbio. Intanto oggi hai detto a Di Pietro, facendolo incazzare, che Mani Pulite è stato un colpo di Stato. Ma che è successo dopo, scusami? Ma dunque, io semplicemente ho esposto la tesi mia di Diego Fusaro, che sempre ripeto e scrivo nei libri, cioè che Mani Pulite fu nel 92 un colpo di Stato. Beh, non è proprio una cosa leggera. Mani Pulite fu un colpo di Stato per distruggere una prima repubblica che pur con i suoi difetti aveva ancora la centralità della sovranità. E chi avrebbe fatto sto colpo di Stato? Allora, c'era la sovranità monetaria e militare, vedi Sigonella, e c'erano dei diritti sociali che caratterizzavano tutti gli schieramenti politici. Cioè, secondo te c'è lo zampino degli americani? Il movimento sociale italiano. Beh, sicuramente la longa manus atlantista e talassocratica della monarchia del dollaro è lecito ravvisarla. Finita la trasmissione, il signor Di Pietro, al quale porgo ovviamente i saluti e, per carità, mando assolutamente un caro saluto anche a lui. Caro saluto. È finita la trasmissione, si è infuriato e ha continuato a inveire e a sbraitare contro il sottoscritto, il quale con olimpica compostezza ha ribadito fermamente la sua tesi. Io devo Fusaro, ripeto, Mani Pulite essere stato un colpo di Stato. Dunque Di Pietro una specie di burattinaio di qualche potenza straniera, o no? Ma dunque, talvolta gli individui pensano di agire in buona coscienza e non si accorgono di essere strumenti nelle mani di quella che Hegel chiamava l'astuzia della ragione. Ma che c'entra in questo caso l'astuzia della ragione? Strumento in mano di chi? Oso mettere in discussione che Mani Pulite da parte dei suoi agenti fu anche qualcosa fatto in buona fede. Però, e tuttavia, per eterogenesi dei fini, produsse quel che sappiamo. Dunque, cioè Di Pietro fu la strada alle rivoluzioni liberiste, cioè paradossalmente proprio a quel Silvio Berlusconi che Di Pietro oggi contrasta. Per cui tu stai dicendo che fu uno strumento di potenze sconosciute, di potenze... Mani Pulite fu esattamente lo strumento di un capitalismo che dopo il 1989, vincente sui comunismi, corrotti. Poteva ora passare all'assalto di quei partiti politici. Ma cosa dici? Strumento del capitalismo, dice. Al Movimento Sociale Italiano, passando per la DC, per distruggere il residuo Stato sociale ancora esistente. Ecco, ma io voglio capire. Ma il signor Di Pietro, il signor Craxi, corrotto finché volete, aveva la dignità a Sigonella di far valere l'ultimo barlume di sovranità nazionale. Come ha reagito dopo, signor Di Pietro? Di Pietro ha perso letteralmente dietro le quinte. Si è infuriato e a un certo punto ha continuato a inveire finché poi si è purtroppo accasciato al suolo, perché non stava molto bene. Spero ora sia meglio. Praticamente lei ha tentato di uccidere Di Pietro, sostanzialmente. Non sia mai, io. Cioè, ma è arrivata l'ambulanza? È arrivata l'ambulanza? Da quel che ho visto, poi l'hanno portato via nell'altra stanza. Io mi è stato chiesto per cortesia di allontanarmi, perché qualora mi avesse rivisto, avrebbe poi avuto, come si dice, una ricaduta. Lei è un killer, non è un filosofo. Lei è un killer. Hai visto arrivare l'ambulanza, Diego? No, l'ambulanza non l'ho vista arrivare, e tuttavia penso che abbia dovuto avere delle assistenze dopo, perché l'hanno portato. Cioè, sono arrivati i medici perché è caracollato per terra. È caduto a terra. Ha avuto un malore. Ma mentre si scagliava contro di te, mentre dell'aria che tira, l'ha soccorso e aiutato. Sì, ci hanno dovuto separare perché mi stava per mettere le mani addosso. Mamma mia, ragazzi. Ho mantenuto una compostezza atarastica degna di Epicuro e dei suoi dei olimpici, perché non ho assolutamente perduto la compostezza e ho continuato a dialogare socraticamente. Ho capito, professore, ma si vede che quel suo modo di porsi gli ha fatto girare i coglioni ancora di più, però. Scusi, il suo modo di porsi si vede che gli ha fatto girare i coglioni. Su quello convengo con lei. Il fatto che io avessi la mia compostezza tradizionale, quasi proverbiale, non faceva altro che rinfocolare una razza. Mica è colpa sua, mica sarà colpa sua. Quella è caracolato per terra, punto e basta. Ho capito, però se tu mi guardi e gli auguro ogni bene, certo, non c'è dubbio. No, ma non gli auguri nulla. Secondo me lui, già a sentire la sua voce che gli dici io gli auguro ogni bene, sta ancora più male. Cioè, io ho capito. Cioè, va bene. Raccontano che Socrate, quando si adirava, era solito abbassare il tono della voce. Lo racconta Seneca nel De Ira. Bene. Ecco, anch'io seguo questo aureo principio. Grazie. Arrivederci. Grazie a voi e un caro saluto da Diego Fusaro. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. E sti cazzi! Un tempo, per non pensare ai miei drammi, mi davo i cannoni. Invece adesso ascolto La Zanzara. Ed è funziona, è una baza. La Zanzara, dosi illimitate e gratuite. Sono davanti al supermercato, sto cercando un negro a cui dare un euro per spingere il carrello. Figa, non ce n'è uno. Cazzo, siamo invasi e non c'è neanche un negro che mi spinge il carrello. Ma cosa vuoi che me ne porti di dare qualche euro dei poveracci? Poi aiutano mia moglie anche a trascinare il carrello del supermercato, perché io non esco dalla macchina, io la aspetto lì, lei si fa aiutare dal negro, ci porta tutto. Sì, il negro cosa fa? Se vuole l'euro, qualcosa dovrà fare. Allora, ragazzi, il caso Latina, la legittima difesa, quello che però, ha sparato. No, notizia importante, strano che il telegiornale non abbia interrotto con la breaking news, perché è uscita una notizia bomba, per fortuna, una bella notizia. Tu devi guardare cosa sei notizie, Roma. Sono sempre sbagliate le notizie dai. Marcia, col cazzo, non è mai successo. Marcia su Roma, Forza Nuova rinuncia al corteo del 28 di ottobre. Vabbè. Quindi possiamo annunciare che questi poveretti, questi neofascisti, questi miserabili hanno rinunciato, per fortuna, alla loro pagliacciata. Io dico che un po' mi dispiace, sai? Lo sai, dispiace. È tutta una cosa propagandistica. Sai che mi dispiace? Cioè, ti fanno credere. Sai che mi dispiace? Perché l'avremmo arrestati tutti. Ma che arrestati? Mi dispiace. Ma smettila, perché di se arrestare loro avessero forzato e avessero davvero messo in scena questa patetica marcia, lì ci sarebbero stati tutti gli estremi per poter intervenire ex legge Mancino. Quindi da una parte sono felice, perché ovviamente la buffa, dall'altra un po' mi dispiace, perché sarebbe stata un'ottima occasione per bloccarli, arrestarli tutti. Mi date per cortesia un goccio di bollicine? Grazie. Bollicine, sì. Fresco. Allora, ragazzi, la legittima difesa, quello che ha sparato e ucciso uno dei ladri, la Santanchè. Senti cosa dice la Santanchè. Trovo uno che è in casa e che sta rubando, ma chiedo scusi, si può girare che la voglio vedere meglio, o se un'arma sparo? Sparo e lo uccido, e io personalmente un morto che non piango. Ho già detto di Pietro, era un italiano, ma poco mi importa che il delinquente che è morto è un italiano. Io, a differenza di altri, non ne faccio una questione di colore, di pelle, di religione. Ne faccio una questione tra persone che hanno i diritti di stare nel nostro paese e quelli che non ce l'hanno. È inutile che lei dica, gliel'ha detto, basta, che è italiano. Ma lo so che era italiano, ma poco mi importa. Ed è un morto che non piango. Feeling that something is coming. Adesso arrivo a voi, ragazzi. Anzi, no, partiamo subito. Maria Grazia da Palermo, vai. Maria Grazia, ma c'è qualcuno che veramente piange il ladro che è morto a pistolettate l'altro giorno a Latina? Ma c'è veramente di qualcuno che piange o che è dispiaciuto, no, guarda, di questa sbagli. Cosa? Non si tratta, ma no, di piangere, ma è normale, si tratta di fare, dai, giustizia, cioè di capire che cosa è accaduto e di applicare la legge. Ma non c'è niente da capire. Non c'è da non esultare c'è da una parte e dall'altra, non c'è da fare il tifo per nessuno uno esulta, per l'altro, ma non c'è da fare nemmeno campagne di stampa come stai facendo tu. Sparate dappertutto, sparate no, ovunque. Io ho detto in c'è casa, ho detto in casa, da riflettere, da capire, da riflettere cosa, capire che studiare questo le si è introdotto in casa, si è beh, introdotto è in una casa. In base alla legge che c'è già sulla legittima difesa, il signor avvocato accusato che ha sparato, accusato di omicidio, ora sarà, tecnicamente è un assassino, sarà perché ha ucciso una persona, quindi ma l'avrà fatto pazzo, e non sarà, non sarà neanche pazzo rinviato a giudizio. Ma come no, vedrai. Dai, perché diranno, che era di spalle, di persone, però si poteva sparare ucciso, in aria. Ma tecnicamente cosa ha fatto? Mi spieghi tecnicamente cosa ha fatto? Ha sparato a un ladro che voleva violare la vita a un ladro? Che voleva dire assassinato un ladro? Ma possiamo usare questa parola Tu stai accostando la parola assassino. Ha ucciso chi è un assassino? È colui che uccide. Ha ucciso legittimamente. Probabilmente ha assassinato legittimamente, perché esiste una cosa che si chiama legittima difesa. Maria Grazia, Maria Grazia, non mi interessa. No, ti deve interessare. Non mi interessa. Dimmi, Maria Grazia. Ok. Un saluto, prima di tutto ciao a te. Un saluto da Diego Fusaro. Anche quello, scusi signora, anche quello, un saluto da Diego, un saluto carissimo da Diego. Anche quella roba lì mi manda, se ci penso, mi manda i nervi effettivamente. Prova a mandarmelo un attimo. Mi manda i matti. Vabbè, Maria Grazia, vai. No, questa è una congiuntura del destino, perché caso vuole che anch'io sia una collega del Fusaro. Cioè, sei professoressa anche tu? Di filosofia e storia, sì, ma non ne condivido, diciamo, l'impianto teorico. Che succede? Base. Che stai facendo? Ho strappato un foglio interessante di una cosa, di una notizia che ti volevo dare. Ma non me ne frega un cazzo, fai parlare Maria Grazia! Basta! Basta, ti vado i matti, Maria Grazia, dimmi. Buonasera, a voi da Diego Fusaro. Eccolo qua. Ma vedi? No, ma vedi? Ma ti fai nervosire o no? Prego. Maria Grazia, dimmi. Dai. Scusi. Sì. No, dicevo questo. Io volevo intervenire a proposito del discorso di Asia Argento. Dimmi. Precisando che fondamentalmente non me ne frega una beneamata minchia, dice, se lei se ne va dall'Italia o cose di questo tipo, ma episodi come quelli che sono accaduti in questi giorni mi fanno ghiacciare, più che altro per la reazione che poi leggo nei soliti commenti di questo femminismo qualunquista, come lo definisco io, cioè? Di cui la Boldrini rappresenta secondo me la summa, capì? Quando tu infatti hai ogni tanto, diciamo, degli sfoghi, ecco, io mi esalto a casa, rimango sola nella mia minoranza. No, sì, non sto scherzando, perché ritengo che in quella posizione... Ti ecciti anche un po'. Sì, volendo. Sì, volendo, sì, vedi? Si eccita ancora. Capito, Parenzo, quando io ho i miei sfoghi, quando faccio le mie intemerate, quando faccio miei... Vabbè, tu ogni tanto esageri, ma il contenuto, da questo punto di vista, lo sposo appieno. Cioè, se mi permetti l'apertura di una parentesi, dimmi, apri l'altra parentesi. Volta quando è arrivato il comunicato su Sgarbi, ti ricordi? Che comunicato? Sì, il comunicato in radio che... Radio, non ho nessun comunicato su Sgarbi, che comunicato arriva? No, cioè che l'intervento che aveva fatto sulle donne siciliane, non so se ti ricordi. Sì, come era... sì, ho capito, la protesta delle femministe, perché allora, lui ha scherzato sulle donne siciliane. Che poi ho anche sentito l'intervento. Ma sono delle poveracce queste, dai. In quella... bravo. Sono delle poveracce. Quando dici queste cose capisci ti amo, e questo lo dico da donna. Ecco, ma tu, Maria Grazia, tu hai anche un pelo folto, no? Per sapere, insomma, sono abbastanza... Ecco, queste informazioni, diciamo, non tanto per non darti a te, ma perché capisci... Cioè, no, però è interessante, perché siccome Sgarbi dice che le donne siciliane... No, lo so, sì, lo so cosa ha detto. Però è interessante sapere da te... Confermerei la sua teoria. Cioè, tu ami, come dire, il bosco. Avere il bosco. No, oddio, è anche un po' scomodo. Ora non posso scendere in dettagli. No, devi però comunque... scendere in dettagli. Non posso. Devi. Io vi lascio soli, ragazzi. No, no, allora, aspetta, vi lascio soli, no, così voi potete tubare su queste porcherie. No. Cioè, io non è che giudico porcherie questo. Giudico la porcheria, è una conversazione pubblica. No, io su sto questo. Chiedendo a Maria Grazia se preferisce la rasatura dell'aiola, come diceva una volta una canzone, mi sembra, Grignani. Guarda, allora mettiamola così, sarò franca, da un punto di vista della praticità. Vabbè, questo lo so, ma io voglio sapere cosa preferisci tu, cioè se sei una persona che è abituata a depilarsi nelle parti intime oppure no, oppure preferisci ogni tanto il boschetto che fiorisce. No, quanto basta, questa è la risposta. Vabbè, ma quanto basta mi sembra quel QB che non so, ogni tanto c'è cioè, in qualche menù. No, quanto basta che comunque nell'espressione QB. Diciamo di Sgarbi aveva avuto anche un non so che di poetico. Perché io dunque non hai trovato nessuna offesa alle donne negli interventi sgarbiani? No, tu non ci ho trovi trovato nessuno. Semplicemente uno stile un po' sopra le righe. Vabbè, che capito, andava quello... letto bene. Però tu sei... il contenuto era assolutamente invece. Ma perché tu sei intelligente? Perché tu sei non sei una di quelle che si accoda alla Boldrini, queste parole tutte uguali che pronuncia Parenzo, le donne, i diritti delle donne. Tu forse Viola... fugge, diciamo una, come dire, una conseguenza assurda di questi discorsi. Qual è? Cioè il fatto che anche all'interno delle scuole, ormai da 2, 3, 4 anni, si moltiplica una serie di iniziative fondate esclusivamente su questo genere di lettura dei rapporti uomo-donna. Cioè col femminismo imperante, dici tu. Ma è un fasullo femminismo. Vetero femminismo imperante. Esattamente. I diritti delle donne. Io appena sento la parola i diritti della donna vado ai matti. Non so perché. Lo so. Io vado ai pazzi. Metto mano alla pistola, come diceva un famoso signore del tempo passato, insomma, purtroppo. Non dico, era esattamente. No, non è un modello, certamente. Però è un'espressione che ormai... Certe volte Parenzo, quando esagera nei suoi commenti, diciamo... Sì, luogo comunisti. Sì, esatto, bravissimo. Luogo comunisti. Sì, cioè io mi piace quando dice bravissimo, si vede proprio che c'è una soddisfazione, bravissimo. No, ciao, c'è un'intesa tra di voi, sì. Come deformazione professionale. Ciao Maria Grazia, ciao. Pierluigi, ciao. Vai. No, c'è Pierluigi. Un'intesa. Vabbè, un'intesa pronto. Radiofonica adesso, non esagerare. Pierluigi, dimmi, dai. Ma chissà pronto, come andrà a finire poi questa cosa. Ma come andrà a finire? Perché volevo dire una cosa. Cioè non che, lo so, vedremo. Pierluigi, io a 16 anni ho ricevuto la stessa proposta di Asia Argento. Da chi, scusami? In che contesto? Stavamo a Roma con un amico, abbiamo incontrato un tizio che poi si è rivelato un cocio, che ci ha offerto un gelato a Ostia e ci prometteva una festa il giorno dopo a casa sua con delle amiche, pieno di fica, del sesso, droga, rock and roll, tutte queste cose. E alla fine poi ci ha offerto un gelato a Ostia, ci ha portato in Pineta e mi ha fatto un pompino. E io il giorno dopo, col cazzo che c'era all'appuntamento per la festa con un sacco di figa. No, adesso voglio dire, va benissimo. Io non so perché tu hai accettato queste avance, evidentemente hai, come dire, ti piaceva. Perché il giorno dopo pensavo... Ma va bene, la promessa di una festa dove c'erano delle donne, mi sembra un po' poco sinceramente per accettare questo tipo di avance o questo tipo di pratica. Ad Asia Argento hanno offerto molto di più e appunto dico, la proposta. Ho capito, perciò io non vedo violenza, vedo proposte. Sì, vabbè, d'accordo, le proposte quello questo che ho detto ognuno prima. Vede quello che vuole. Però... quello che ha visto lei è l'unica cosa importante, sì, cioè qui ognuno vede quello che vuole. Posso vedere una cosa, la legge è un'altra, non può essere una violenza. No, ma non ho capito, Pierluigi, però adesso il tuo caso è sinceramente un po' assurdo, cioè Parenzo, hai capito che è successo a questo signore qua, Pierluigi? Ho capito perfettamente. Si vede che lui non è stato in grado di difendersi e si è fatto trasportare in questo bosco. Ma no, ha accettato. Va bene, ha accettato, ho capito benissimo, ha accettato perché gli andava, perché perché mi sarebbe piaciuto andare. E allora perché ce lo racconta? Che poi non c'è. Sta dicendo che c'è stato un do-ut adesso, cioè si è fatto fare dicendo, una fellazio, è una storia assurda. Perché lui il detto non mi ha ridato, ha capito? Ho capito, amico mio, però adesso va la riprende dopo quanti anni? Balla ripizzicata, non lo so, chiami il sindacato, chiami la Camusso, non lo so, chiami la FIOM, non lo so, vada dal sindacato, si lamenti. Che razza di storia è la sua? Di argento, no? Cioè, sì, ma non c'è, è un qualche sospetto? Posso avere qualche sospetto su questa storia? No, perché, posso averla? No, al contrario, perché? Allora valorizziamo. Ti sta anche dicendo Pierluigi Dalla Pina che in Pineta è andato. Si è fatto fare... Posso dirti che mi hanno stufato tutti questi che chiamano? No, per carità, no, è la trasmissione che è così, benissimo. Nicola, da me, Pierluigi, hai fatto bene. Nicola, buonasera. Dico, mi ero un po' stufato. Dimmi. Buonasera, Cruzani. Senti, volevo dire, in merito a quel professore, credo, che accompagnava accompagna quel ragazzo cieco, mi è successa la stessa cosa. Cioè? Io anni fa aiutavo un ragazzo disabile che aveva sindrome di Down, e ce n'erano altri ovviamente che avevano maggior disabilità, io ero neofita e aiutavo lui. E continuava a dirgli sorridendo: guarda, mio papà mi fa un regalo per il mio compleanno. E io dico: che cosa ti fa papà? Insomma, cercavo di essere paterno. E cazzo, papà gli regalava una prostituta e lui era contentissimo. Quindi io capisco quello che ha raccontato quel signore, perché alla fine siamo esseri umani, anche le persone che hanno delle disabilità comunque hanno delle pulsioni. Quindi, ma non ho capito, questo qua il padre lo portava prostituta in pratica? Assolutamente sì. Ma tu hai certezza di questo? Hai prove di questo? Sì. Non ho prove, anche perché in quella situazione io ci ho provato con un'altra che accompagnava un altro disabile. Va bene, Mirko dalla provincia di Padova, dai Mirko. Ma ragazzi, queste cose esistono perché la prostituzione serve. La serva serve, come diceva Totò. Ti ricordi il film di Totò? Diceva la serva come serve. No, certo, la serva serve, la prostituzione serve, è utile alla società. Se non ci fosse la prostituzione sarebbe un disastro, è un servizio sociale. È una... Che ne dica di Nolfi? Ieri sera la Zanzara ha fatto un grande show contro la prostituzione dandomi del miserabile, no? Anzi, del che mi ha detto, del... non mi ricordo esattamente il termine che ha usato. Mirko dalla provincia di Padova. Sì, su quello aveva ragione. Ciao, su quello. Dimmi, vai. Ciao, volevo darvi questa notizia, non so se l'hai letta o vista di qualche giorno fa sulla Nazione di Viareggio, me l'hanno whatsappata proprio stamattina. Dimmi. È tutti che danno questa... notizie. Bene, cosa... ottimo, dimmi. Questa mamma che ha messo sulla chat della scuola, dei genitori della classe, del mentale del bambino, questo suo video, chiaramente erroneamente, che si masturbava in pubblico, cioè in pubblico in bagno, dicendo che doveva dare alla mamma. Che doveva darlo, scusami, alla mamma, doveva darlo al marito, che era per il marito, ha giustificato poi. Vabbè, che ti devo dire, la conosci? La stanno massacrando con chi cazzo parla Parenzo? Con mio nonno in carriola? Aspetta, è no, finita. Stavo parlando, ma è te finita, lo voglio dire. Un attimo. Ma volevo farti in diretta perché è venuta dentro una signora gentile ma chi che se ne frega? Ha rifatto la stanza. Ma non me ne frega un cazzo che... dell'acqua fresca. Ma non me ne frega nulla, non ce ne frega. Mi ha portato... No, te lo voglio dire, mi ha portato anche la lista per la colazione, volendo in camera domani celebrare il rito della prima colazione sulla terrazza. Ma non ce ne frega niente. Molto... Mirko, scusi, non ho capito bene. La stanno massacrando questa mamma, questa docente. Sì, perché sui social, a parte che poi sta sui giornali, perché la Nazione... Ho capito, ragazzi, ormai mandare questi video qua è molto pericoloso. A fare WhatsApp, anche tu fai video che ti masturbi e mandi le foto del tuo uccello in giro, o no? No. No, mai. Video no. Ciao Mirko, ciao. Ciao ragazzi, ciao. Ragazzi, ma Emilio Fede, chiudiamo così, Emilio fatto? Fede, è vero o no? È vero o no che pare che abbia fatto testamento, ma non sta per morire? Cioè, prima ha detto che sente che la fine è vicina, poi invece ha detto un'altra volta: no, non è vero, non sto per morire. Verifichiamo? Verifichiamo. A domani, ciao. Eccoci. Buongiorno direttore. Volevo chiederle, ma è vivo? No. Ma come? A volte dice che si sente di morire e ora non si sente più. No. E allora mi spieghi questa cosa? Perché sono mortificato, che anche il termine è giusto. Sì. Certo che ne dice di cazzate, Sì. Ma tante proprio, Sì. Allora lei è vivo, possiamo stare tranquilli. No. Beh, ma mi spieghi, direttore, non ci faccia stare in ansia. Inga. Inga. Certo che non la capisco, siamo sicuri che è vivo, sì? No. Va bene, direttore. Di sicuro c'è solo che sei un povero testa di cazzo, ti saluto. Direttore, ma allora è vivo, io sono contento se lei è vivo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Perché è la frutta?